L'ho tirato fuori, Obli. Cos'hai tirato fuori, Obli? L'ho tirato fuori davanti a te. L'ho tirato fuori, sai perché? Io sono solo un Flintstone. Nella testa ho i transistor. Sono il cane nell'aiuola. In bocca mi metto una museruola. Mi sentivo programmato. Adesso sono un pazzo insano. L'ho tirato fuori, sai perché? L'ho tirato fuori il disco, zia. L'ho tirato fuori davanti a te. Adesso suoni a casa mia. L'ho tirato fuori, sai perché? L'ho tirato fuori il disco, Ila. L'ho tirato fuori davanti a te. Adesso lo vuoi a casa mia. Fuori, fuori, fuori, fuori, l'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori, sai perché? Fuori, fuori, fuori, fuori, l'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori il disco, zia. Fuori, fuori, fuori, fuori, l'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori davanti a te. Fuori, fuori, fuori, fuori, l'ho tirato fuori. Adesso lo vuoi a casa mia. L'ho tirato fuori, l'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori, l'ho tirato fuori. Fuori, fuori, fuori, fuori, l'ho tirato fuori. Vaffanculo, vaffanculo. L'ho tirato fuori, l'ho tirato fuori. L'ho tirato fuori, l'ho tirato fuori. Fuori, fuori, fuori, fuori, fuori. L'ho tirato fuori il disco, zia, il disco, Ila. Per la strada urlo tette. In due minuti sono in manette. Giro con la maschera della peste. Il 1400 o il 2007? Taglielo no a una certa Ilaria. Lei non mi vuole, ho la malaria. L'ho tirato fuori, manca l'aria. L'ho tirato fuori a una maiala. L'ho tirato fuori a qualcuno. Per diventare anch'io qualcuno. Per non restare mister nessuno. Per non fumare più al buio. Ho il pacco a palla, non lo vedi. Ho il pacco maculato come gli alieni. Ho la pelle gialla come i cinesi. Su Gay TV conto gli arnesi. Come dice lei, niente perduto. Vaffanculo, vaffanculo. Prendo addosso un altro sputo. Mi getta come un rifiuto. Con te non l'ho mai tirato fuori. Con te non l'ho mai tirato fuori. Un giorno forse, se ti sposo, sarò famoso. Ma sono un uomo, mi vesto in giacca e cravatta. Mi dicono buongiorno invece che ciao in banca. Mi vesto in giacca e cravatta. Mi dicono buongiorno invece che ciao in banca. Banca, banca, banca, banca. L'ho tirato fuori, sai perché? L'ho tirato fuori il disco, zia. L'ho tirato fuori davanti a te. Adesso suoni a casa mia. L'ho tirato fuori, sai perché? L'ho tirato fuori il disco, Ila. L'ho tirato fuori davanti a te. Adesso lo vuoi a casa mia. L'ho tirato fuori, sai perché? L'ho tirato fuori il disco, zia. L'ho tirato fuori davanti a te. Adesso suoni a casa mia. L'ho